Ad alta voce. Ennio Fantastichini legge Ernest Hemingway. La farfalla e il carro armato. Quella sera stavo tornando a piedi all'Hotel Florida dall'ufficio della censura e stava piovendo. Così più o meno a metà strada mi stufai della pioggia e mi fermai da Cicote per bere un goccio. Era il secondo inverno di canoneggiamento dell'assedio di Madrid e tutto scarseggiava, compresi il tabacco e la pazienza della gente. Ed eri sempre un po' affamato e all'improvviso e senza ragione ti irritavi per cose su cui non potevi far niente, come il tempo. Avrei dovuto proseguire sino a casa. Mancavano solo 5 isolati, ma quando vidi l'ingresso di Cicote pensai di bere un goccio prima di fare quei 6 isolati sulla Gran Via, nel fango e nelle macerie delle strade fracassate dai bombardamenti. Il locale era affollato, impossibile avvicinarsi al bar, e i tavoli erano tutti occupati. Era pieno di fumo, di canti, di uomini in divisa e di un odore di giacche di pelle bagnate. E al bar distribuivano bibite a una folla profonda 3 persone. Un cameriere che conoscevo mi procurò una sedia da un altro tavolo ed io mi accomodai con un tedesco magro e pallido che conoscevo e che lavorava alla censura, e con altre 2 persone che non conoscevo. Il tavolo era al centro del locale, appena a destra, entrando. Impossibile udire anche una sola parola con tutti quei canti. E io ordinai un gin e angostura e lo mandai giù come antidoto alla pioggia. Il locale era proprio stipato ed erano tutti molto allegri. Forse lo stavano diventando un po' troppo con quel liquore catalano appena fatto che quasi tutti stavano bevendo. 2 o 3 persone che non conoscevo mi diedero una pacca sulla schiena e quando la ragazza seduta al mio tavolo disse qualcosa, io, che non avevo potuto udirla, dissi: ma certo, era davvero molto brutta, decisamente. Ma quando arrivò il cameriere, si venne a scoprire che mi aveva chiesto se volevo bere qualcosa. Il tipo che l'accompagnava non sembrava molto vigoroso, ma lei lo era abbastanza per tutti e 2. Aveva una di quelle facce energiche e quasi classiche. Ecco, il fisico di un domatore di leoni. Mentre il ragazzo pareva uno che potrebbe portare la cravatta della sua vecchia scuola, solo che non la portava. Indossava una giacca di pelle come tutti noi, ma non era bagnata perché erano lì da prima che si mettesse a piovere. Anche lei portava una giacca di pelle che stava molto bene col tipo di faccia che aveva. A questo punto avrei voluto non essermi fermato da Cicote, ma essere andato diritto a casa, dove potevi cambiarti d'abito e stare all'asciutto e berti un drink in santa pace a letto con i piedi alzati. Ed ero stufo di guardare quei 2 giovani. La vita è molto breve e le donne brutte sono molto lunghe. E seduto a quel tavolo decisi che, pur essendo uno scrittore, quindi teoricamente provvisto di una curiosità insaziabile su gente d'ogni genere, in realtà non mi interessava sapere se quei 2 erano sposati o cosa trovavano l'uno nell'altro o quali erano le loro idee politiche o se era lui che aveva un po' di soldi oppure lei o qualsiasi altra cosa che le riguardasse. Decisi che dovevano essere della radio. Ogni volta che a Madrid vedevi dei civili dall'aria strana, erano sempre della radio. Allora, tanto per dire qualcosa, alzai la voce sopra quel baccano e domandai: voi state alla radio? Sì, disse la ragazza. Ovvio, erano della radio. Come stai, compagno? Dissi al tedesco. Bene, tu? Bagnato, dissi. E lui rise piegando un po' la testa. Hai mica una sigaretta? Domandò. Gli posi il mio penultimo pacchetto e ne prese 2. Altre 2 le prese la ragazza vigorosa e 1 il giovane con la cravatta della vecchia scuola. Prendine un'altra, gridai. No, grazie, rispose, e se la prese il tedesco. Ti dispiace? Sorrise. Ma no, dissi. In realtà mi dispiaceva e lui lo sapeva benissimo. Ma era tanta la sua voglia di sigarette che non aveva importanza. I canti erano improvvisamente cessati. O forse c'era stata un'interruzione, come a volte in una tempesta. E ora potevamo udire tutto quello che dicevamo. «Sei qui da tanto?» mi domandò la ragazza vigorosa. «A intervalli», dissi. «Noi dobbiamo fare un discorso serio», disse il tedesco. «Ho bisogno di parlare con te quando sarà possibile». «Ti telefono», dissi. Questo tedesco era un tedesco molto strano e non piaceva a nessuno dei buoni tedeschi. Si illudeva di saper suonare il piano, ma se lo tenevi lontano dai pianoforti era un buon diavolo, a meno di non esporlo ai liquori o all'occasione di far pettegolezzi. E sinora nessuno era mai riuscito a tenerlo lontano da queste due cose. I pettegolezzi erano la sua specialità. Sapeva sempre qualcosa di nuovo e di molto compromettente su qualsiasi persona che ti capitava di nominare, a Madrid, a Valencia, a Barcellona o negli altri centri politici. Proprio in quel momento ripresero a cantare con energia e poiché urlando non è possibile spettacolare bene, da cicote pareva proprio un pomeriggio noioso. E io decisi di andarmene dopo aver offerto a mia volta un giro. Ma fu allora che cominciò. Un civile in completo marrone, camicia bianca, cravatta nera, capelli lisci, spazzolati indietro, sopra una fronte piuttosto alta, dopo aver fatto il buffone da un tavolo all'altro, spruzzò con una pistola d'acqua uno dei camerieri. Risero tutti, tranne il cameriere, che in quel momento stava portando un vassoio pieno di bibite. Era indignato. «No hai da recio», disse il cameriere, che significa «non hai il diritto di fare questo». E in Spagna è la protesta più semplice e più energica. L'uomo con la pistola d'acqua, felice del successo ottenuto e apparentemente indifferente al fatto che eravamo nel pieno del secondo anno di guerra e che quella era una città assediata dove tutti erano tesi e che lui era solo uno dei quattro uomini in borghese che si trovavano nel locale, spruzzò un altro cameriere. Mi guardai attorno, cercando un posto dove mettermi al riparo. Anche questo cameriere era indignato, e l'uomo con la pistola d'acqua lo spruzzò altre due volte, allegramente. Alcuni dei presenti, compresa la ragazza vigorosa, consideravano ancora la cosa divertente. Ma il cameriere rimase immobile, scuotendo il capo. Gli tremavano le labbra, era vecchio, e per quanto mi risultava lavorava da cicote da 10 anni. «No hai derecho», disse con dignità. Ma la gente aveva riso e l'uomo con la pistola d'acqua, non essendosi accorto che i canti erano calati di tono, spruzzò la nuca di un altro cameriere. Il cameriere si voltò con il suo vassoio. «No hai derecho», disse. Stavolta non era una protesta, era un atto d'accusa. E io vidi 3 uomini in divisa avvicinarsi all'uomo con la pistola d'acqua e immediatamente dopo uscirono tutti e 4 dalla porta girevole e si udì uno schiocco quando qualcuno colpì alla bocca all'uomo con la pistola d'acqua. Qualcun altro raccolse la pistola d'acqua e gliela gettò dietro. I 3 tornarono con un'aria seria, dura e soddisfatta. Poi la porta girò ed entrò l'uomo della pistola d'acqua. Aveva i capelli sugli occhi, la faccia insanguinata, la cravatta di traverso e la camicia strappata. Aveva recuperato la pistola d'acqua e, quando entrò nel locale, stralunato e pallidissimo, se ne servì per un unico spruzzo generale, provocatorio, senza un bersaglio preciso, puntandola contro l'intera compagnia. Vidi uno dei 3 uomini avviarsi verso di lui e vidi la faccia di quest'uomo. Adesso con lui c'erano anche 3 uomini che costrinsero l'uomo con la pistola d'acqua ad indietreggiare tra i 2 tavoli, a sinistra entrando, e ora l'uomo con la pistola d'acqua si dibatteva furiosamente. Quando partì lo sparo, io presi per un braccio la ragazza vigorosa e mi lanciai verso la porta della cucina. La porta della cucina era chiusa e quando cercai di prenderla a spallate non cedette. «Buttati a terra dietro l'angolo del bar», dissi. Lei si inginocchiò dove le avevo detto. «Distesa!» dissi e la spinsi giù. Era furibonda. Tutti i presenti, tranne il tedesco che si era sdraiato dietro a un tavolo e il ragazzo dall'aria aristocratica che stava appiattito in un angolo contro la parete avevano estratto una pistola. Su una panca appoggiata al muro c'erano salite tre ragazze biondissime, con i capelli scuri alle radici, che stavano in punta di piedi per vedere e strillavano in continuazione. «Io non ho paura!» disse la ragazza vigorosa. «È ridicolo!» «Non ti consiglio di farti sparare in una rissa da caffè», disse. «Se quel re dello spruzzo ha qui degli amici, le cose possono mettersi molto male». Ma evidentemente non aveva amici, perché la gente cominciò a mettere via la pistola e qualcuno tirò giù le bionde che strillavano, e quanti si erano avviati in quella direzione al momento dello sparo indietreggiarono, lasciando lì l'uomo con la pistola ad acqua che giaceva immobile sul pavimento. «Nessuno può uscire finché non arriva la polizia», gridò qualcuno dalla porta. Due poliziotti armati di fucile, che si erano staccati da quelli che pattugliavano la strada, erano fermi all'ingresso. E a questo annuncio vidi sei uomini schierarsi come la barriera di una squadra di football che ha appena finito di consultarsi sulla tattica da seguire e dirigersi verso la porta. Tre di loro erano quelli che avevano buttato fuori il re dello spruzzo. Un altro era quello che gli aveva sparato. Superarono decisi i poliziotti con i fucili, come in un intervento che elimina un estremo e un attaccante. E appena furono usciti, uno dei poliziotti mise di traverso il suo fucile e gridò: «Nessuno può uscire, assolutamente nessuno!» «Ma perché quelli se ne sono andati? Perché trattenerci quando sono andati via tutti? Erano meccanici e dovevano tornare al campo d'aviazione», disse qualcuno. «Ma se c'è chi se n'è andato, è stupido trattenere gli altri. Dovete tutti aspettare la Seguridad. Bisogna fare le cose legalmente e con ordine». «Ma non lo capisce che se qualcuno se n'è andato è stupido trattenere gli altri? Nessuno può andarsene, dovete aspettare tutti!» «È ridicolo!» dissi alla ragazza vigorosa. «No, è solo orribile!» Adesso eravamo in piedi e lei guardava indignata dove giaceva il re dello spruzzo. Era a braccia aperte e aveva una gamba piegata. «Io voglio aiutare quel povero ferito. Perché nessuno l'ha aiutato o ha fatto qualcosa per lui?» «Io lo lascerei stare», dissi. «Ti consiglio di non intrometterti». «Ma è inumano. Io sono un'infermiera. Voglio prestargli i primi soccorsi». «Io non lo farei», dissi. «Non ti avvicinare». «Perché?» Era molto agitata, era quasi isterica. «Perché è morto», dissi. Una volta arrivata la polizia ci tenne lì per tre ore. Per prima cosa annusarono tutte le pistole. In questa maniera avrebbero individuato quelle che avevano sparato di recente. Dopo una quarantina di pistole diedero l'impressione di essersi stufati e comunque l'unico odore che si poteva cogliere era quello delle giacche di pelle bagnate. Poi si sedettero ad un tavolo, sistemato proprio dietro il defunto re dello spruzzo, che giaceva sul pavimento con l'aspetto di una caricatura in cera grigia di se stesso, mani di cera grigia e faccia di cera grigia. Ed esaminarono i documenti della gente. Adesso che aveva la camicia strappata, si vedeva che il re dello spruzzo non portava maglietta, che le sole delle sue scarpe erano consumate. Sdraiato sul pavimento, sembrava piccolissimo e miserello. Dovevi scavalcarlo per arrivare al tavolo dove sedevano due poliziotti in borghese, intenti a esaminare i documenti di identificazione di ciascuno. Il marito, nervoso com'era, perse e ritrovò i propri più volte. Da qualche parte aveva un salvacondotto, ma lo aveva messo in una tasca sbagliata e continuò a cercarlo e a sudare finché non riuscì a trovarlo. Poi lo infilò in un'altra tasca e gli toccò ricominciare la ricerca. Sudava moltissimo nel far questo, i suoi capelli divennero molto ricci e il suo viso rosso. Adesso sembrava che portasse non solo una cravatta della vecchia scuola, ma anche uno di quei berretti che indossano i ragazzi delle prime classi. Avrete sentito dire che certi eventi invecchiano le persone? Bene, questa sparatoria gli faceva dimostrare 10 anni di meno. Mentre aspettavamo, dissi alla ragazza vigorosa che secondo me era una buona storia e che un giorno o l'altro l'avrei scritta. La maniera in cui i sei si erano schierati in un'unica fila e si erano lanciati contro quella porta mi aveva colpito. Lei si scandalizzò e disse che non potevo scriverla perché avrebbe danneggiato la causa della Repubblica Spagnola. Dissi che venivo in Spagna da anni e che ai vecchi tempi sotto la monarchia c'erano quantità incredibili di sparatori dalle parti di Valencia, che per centinaia d'anni, prima che esistesse la Repubblica in Andalusia, si tagliavano la gola con larghi coltelli chiamati navajas e che, avendo assistito a una divertente sparatoria da cicote durante la guerra, ne avrei scritto proprio come se fosse avvenuto a New York, Chicago, Key West o Marsiglia. Non c'entrava la politica. Lei disse che non avrei dovuto farlo. Probabilmente tanta altra gente dirà che non avrei dovuto farlo. Il tedesco, invece, pareva considerarla una buona storia. E io gli diedi la mia ultima camel. Beh, alla fine, dopo 3 ore, la polizia disse che potevamo andare. Al Florida erano un po' preoccupati per me, perché in quei tempi, con i cannoneggiamenti, se ti avviavi per tornare a piedi e non arrivavi dopo le 7:30, quando chiudevano i bar, la gente si preoccupava. Io ero contento di essere di nuovo a casa e raccontai la storia mentre preparavamo la cena su una stufa elettrica ed ebbe un certo successo. Beh, durante la notte smise di piovere. E il mattino dopo era una bella, fredda e luminosa giornata d'inverno e alle 12:15 aprì con una spinta la porta girevole di cicote per mandare giù un po' di gin and tonic prima di pranzo. A quell'ora c'era pochissima gente e 2 camerieri e il direttore vennero al mio tavolo. Sorridevano tutti. «L'hanno preso, l'assassino?» domandai. «Non farlo spiritoso a quest'ora», disse il direttore. «Tu lo hai visto sparare?» «Sì», gli dissi. «Anch'io», disse lui. «Ero proprio lì quando è successo», indicò un tavolo all'angolo. «Ha spinto la pistola contro il petto di quell'uomo quando ha sparato». «Fino a che ora hanno trattenuto la gente?» «Ah, oltre le 2 del mattino. Sono tornati per il fiambre, che nel gergo spagnolo è il cadavere. Lo stesso termine usato nei menù per indicare la carne fredda. Stamattina alle 11. «Ma tu non sai ancora niente», disse il direttore. «No, non sa», disse un cameriere. «È una cosa molto rara», disse un altro cameriere. «Muy raro». «È triste anche», disse il direttore, scosse il capo. «Sì, triste e curiosa», disse il cameriere. «Molto triste. Raccontatemi». «È una cosa molto rara», disse il direttore. «Raccontatemi, su, raccontate». Il direttore si chinò sul tavolo in un tono di grande confidenza. «Nella pistola ad acqua, sai», disse, «c'era acqua di colonia. Povereccio». «Ma non era uno scherzo di pessimo gusto, capisce?» disse il cameriere. «Era solo un gesto d'allegria, nessuno avrebbe dovuto offendersi», disse il direttore. «Poveraccio». «Capisco», disse. «Voleva solo che tutti se la spassassero». «Sì», disse il direttore, «è stato un deplorevole malinteso». «E la pistola d'acqua?» «L'hanno sequestrata i poliziotti, poi l'hanno mandata alla sua famiglia». «Immagino che saranno contenti d'averla», dissi. «Sì», disse il direttore, «certo, una pistola d'acqua è sempre utile». «Chi era il morto?» «Un ebanista». «Sposato?» «Sì. La moglie era qui stamattina con la polizia». «E cosa ha detto?» «Si è lasciata cadere accanto a lui e ha detto: Pedro, cosa ti hanno fatto, Pedro? Chi te l'ha fatto?» «Poi la polizia l'ha portata via perché non riusciva a controllarsi», disse il cameriere. «Sembra che fosse debole di petto», disse il direttore. «Aveva combattuto nei primi giorni del movimento. Hanno detto che aveva combattuto nella Sierra, ma era troppo debole di petto per continuare». «E ieri pomeriggio è venuto in città solo per stare un po' allegro?» suggerì. «No», disse il direttore. «Vedi, È una cosa molto rara, è tutto muy raro. L'ho saputo dalla polizia, che è molto efficiente quando ha un po' di tempo. Hanno interrogato qualche compagno della ditta dove lavorava. Ci erano arrivati grazie alla tessera del sindacato che teneva in tasca. Ieri si era comprato la pistola d'acqua e l'agua de colonia per fare uno scherzo a un matrimonio. Aveva annunciato le sue intenzioni, le aveva comprate dall'altra parte della strada. Sulla bottiglia di colonia c'era un'etichetta con l'indirizzo. La bottiglia era nel gabinetto. È stato lì che ha riempito la pistola d'acqua. Dopo averle comprate, deve essere entrato qui quando si è messo a piovere. «Io mi ricordo quando è entrato», disse un cameriere. «E nell'allegria con tutti quei canti è diventato allegro anche lui». «Era davvero allegro», dissi. «Pareva che svolazzasse». Il direttore continuò con la sua inesorabile logica spagnola. «È l'allegria di chi beve quando è debole di petto», disse. «Non mi piace molto questa storia», dissi. «Senti», disse il direttore, «che cosa rara, la sua allegria entra in contatto con la serietà della guerra come una farfalla». «Oh, molto come una farfalla», dissi, «troppo come una farfalla». «Non sto scherzando», disse il direttore, «non capisci, una farfalla è un carro armato». Questo gli piacque tantissimo. Stava immergendosi nell'autentica metafisica spagnola. «Bevi qualcosa a spese della casa», disse. «Devi scrivere un racconto su questo». Ricordai l'uomo dalla pistola d'acqua con le sue mani di cera grigia e la sua faccia di cera grigia, le sue braccia aperte e le sue gambe piegate. E in effetti assomigliava un po' a una farfalla, non troppo certo, ma non sembrava neanche molto umano. Mi ricordava piuttosto un passero morto. «Prenderò un gin con acqua tonica, Schweppes», dissi. «Devi scrivere un racconto su questo», disse il direttore. «Salute!» «Salute», dissi. «Sai, una ragazza inglese ieri sera mi ha detto che non dovrei scrivere di questo, che farebbe molto male alla causa». «Sciocchezze», disse il direttore. «È molto interessante e importante. L'allegria fraintesa che entra in contatto con quella serietà mortale che c'è sempre qui da noi. Per me è la cosa più rara e più interessante che io abbia visto da un pezzo. Tu devi scriverne». «Sì, va bene, d'accordo», dissi. «Aveva bambini?» «No», disse. «L'ho chiesto alla polizia, ma tu devi scriverlo, devi intitolarlo La farfalla e il carro armato». «Sì, d'accordo», dissi. «Ma il titolo non è che mi piaccia molto, eh?» «È un titolo muy elegante», disse il direttore. «È pura letteratura». «Sì, d'accordo», dissi. «Lo intitoleremo così, La farfalla e il carro armato». E restai lì, seduto, in quel mattino gaio e luminoso. E il locale odorava di pulito, di ben aerato e di spazzato, con il direttore che era un vecchio amico e che era molto soddisfatto della letteratura che stavamo facendo insieme. E bevvi un sorso di gin and tonic e guardai fuori della vetrina protetta dai sacchetti di sabbia e pensai alla moglie che si era inginocchiata lì dicendo: «Pedro, Pedro, chi ti ha fatto questo?» E pensai che la polizia non avrebbe mai potuto dirglielo, neanche conoscendo il nome dell'uomo che aveva premuto il grilletto. Ennio Fantastichini ha letto Ernest Hemingway, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it